Io ritengo che questa iniziativa sia molto importante perché ci sono dei fatti che stanno accadendo a Ferrara che io ritengo gravissimi e che vanno assolutamente raccontati anche a livello nazionale. Insomma, non può succedere nel disinteresse generale tutto ciò che vi racconteremo oggi. La grave crisi sociale seguita allo sgombero delle famiglie del grattacielo di Ferrara ha lasciato un segno profondo nella città. Il complesso, articolato in tre torri, ospitava circa 500 residenti, in gran parte stranieri. L'incendio della Torre B ha fornito l'occasione al sindaco leghista Alan Fabbri per disporre lo sgombero dell'intera struttura, senza che fosse però predisposta un'adeguata rete di protezione da parte dell'amministrazione comunale per le persone coinvolte. Questo atteggiamento del comune di Ferrara ha lasciato centinaia di persone senza casa, costrette a confrontarsi con un mercato immobiliare privato, ormai lo sappiamo, inaccessibile, trasformando un problema di sicurezza legato all'impianto antincendio in una vera e propria emergenza sociale. Desidero ringraziare il prefetto di Ferrara per l'impegno dimostrato e per il senso civico e istituzionale con cui lui ha affrontato questa difficile situazione, adoperandosi per ridurre al minimo impatto sociale, sanitario e di ordine pubblico, facendo sentire la presenza dello Stato in una situazione difficilissima che mai avrebbe consentito di abbandonare tutta quella popolazione al proprio destino.